Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E con oggi siamo arrivati al 150esimo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ormai un anno e mezzo di collaborazione che prosegue anche questa settimana con altri due argomenti. Il primo di oggi riguarda, ahimè, gli stipendi che bastano sempre meno per coprire le spese del mese. Ne parliamo col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Allora, si parlava tempo fa, insomma, nelle semplificazioni giornalistiche della quarta, della terza settimana. Adesso addirittura sembra che qualcuno fatichi ad arrivare alla seconda. Guarda Mirko, parliamo di stipendio per chi ha la fortuna veramente di percepirlo, perché oggi veramente le persone che possono dire di avere uno stipendio sicuro cominciano ad essere sempre meno, tant'è che se anche facciamo un po' un'analisi di quelli che sono un po' gli ultimi dati Istat sulla disoccupazione e su scoraggiati, ci rendiamo conto veramente di quanto il lavoro a tempo il lavoro a tempo indeterminato sia sempre più raro. Comunque, tornando a questo qui, al tema di oggi, veramente il dato è stato pubblicato qualche giorno fa dall'Associazione Nazionale delle Famiglie Numerose ed emerge come hai detto tu, le famiglie stentano sempre più arrivare a fine mese e come lo stipendio sempre prima si finisca rispetto alla data dei 30 giorni. Allora, vediamo i numeri precisi, cioè quanti dicono di arrivare alla fine del mese, quanti al ventesimo, al quindicesimo giorno, così capiamo bene anche le dimensioni del fenomeno. Sì, certo che il fenomeno viene molto influenzato per quanto riguarda la famiglia tipo, se ci sono la presenza di figli o meno. Normalmente si considera sempre una famiglia media che abbia circa due figli, però ecco, commentando quelli che sono i dati su quella che è una precisa domanda, la busta paga che riceviamo ogni mese si svuota dopo quanti giorni, è risultato da questa indagine cosa? Che il 18,29% delle famiglie ha risposto entro i primi 10 giorni, questo è un dato molto importante perché siamo quasi una famiglia su 5, il 39,35% addirittura tra gli 11 e i 20 giorni, e qui siamo già arrivati al 60%, il 13,32% tra i 21 e i 29 giorni, solo il 30% scarsi dice che riesce a mettere via praticamente qualcosa ed arrivare oltre i 30 giorni. Insomma, uno su tre lo stipendio gli basta per il mese, però a quasi due su tre invece siamo intorno alla metà del mese circa. Sì, noi come Adico abbiamo sempre denunciato come non si può più parlare della crisi della quarta settimana ma della terza. Certo che i famosi 20 giorni stanno diventando veramente una soglia molto critica dove basta anche un qualsiasi imprevisto per mettere in condizione le famiglie veramente ad arrancare. Poi per quanto riguarda sempre i dati di questa indagine è emerso anche come praticamente le famiglie dopo 18 giorni dalla busta paga e quale strategia adotta sostanzialmente? Praticamente il 23,36% ricorre ai risparmi, che comunque hanno dichiarato si stanno sottigliando sempre più, e qua parliamo di persone che negli anni dopo fortunatamente sono riuscite a mettere via qualcosina. Il 25,55% addirittura si fa aiutare dai nonni e addirittura dei figli più grandi che sono diventati autonomi, e qui abbiamo il fenomeno inverso di come i figli danno una mano ai genitori e non sempre il contrario come tanti ci vogliono propinare, e addirittura molti si rivolgono a parenti ed amici. Molti altri fanno delle rinunce importanti, cercano di lavorare di più, di arrangiarsi, poi sai, ci sono sempre i famosi fenomeni dei compro-oro dove la gente va un po' a portare l'oro per cercare di sopravvivere. Queste sono un po' le strategie che ci permettiamo noi purtroppo denunciare per arricchire un po' questa indagine. Poi ci sono tante altre strategie, ormai sappiamo come in Italia sta prendendo sempre più piede il baratto, altre come quella di mettere a disposizione un po' il proprio tempo, la propria professionalità, perché in un momento in cui non c'è più moneta le persone mettono anche a disposizione la propria professionalità. Io ti faccio tagliando l'auto a te, tu in cambio mi dai un computer. Ecco, questo è un po' il senso. cose di cui abbiamo già parlato tempo fa. Tra l'altro, in questi giorni ha fatto scalpore la dichiarazione del parroco di Idese, Don Enrico Torta, che diceva ci sono quelli ricchi a cui bisognerebbe andare a prendere i soldi, non diciamo a rubarli, però ci sono persone che effettivamente i soldi non li hanno, non per le cose superflue, ma nemmeno per mettere insieme pranzo e cena. Tante volte, Mirko, mi cerco anch'io di rendere conto cosa accadrebbe se perdessimo il lavoro, ci troviamo tutti per terra o per strada, avendo una famiglia, avendo un mutuo, e cercare di interpretare fino a che punto le persone possono essere spinte alla disperazione. Pensiamo anche agli ultimi dati su quanto riguarda la Caritas, sul fatto che sono sempre più le famiglie normali o le persone normali che si rivolgono alle mense dei poveri, addirittura hanno allestito delle salette appartate per chi si vergogna farsi vedere mangiare lì e elemosinare un pasto caldo. Ormai bisogna avere anche coraggio, come ha fatto questo parroco qui, a fare delle dichiarazioni che comunque a volte tutti quanti penso abbiamo pensato, perché sai, riduci nella disperazione, vedersi portare via tutto, casa, famiglia, e non sapere cosa fare, io credo che certi fenomeni o certe provocazioni debbano comunque essere valutate attentamente, perché certo in un momento di così grossa crisi dobbiamo stare attenti anche a quello che è il fenomeno della delinquenza, che a parere nostro può diventare un fenomeno di grande importanza sociale e soprattutto molto rilevante nei numeri, nelle percentuali, anche rispetto a qualche anno fa. Allora, dicevamo, una famiglia su tre afferma che lo stipendio basta fino a fine mese, mentre le altre due praticamente fanno più fatica. A questo punto viene in mente che anche la solidarietà tra famiglie all'interno delle comunità potrebbe essere importante, cioè una volta si diceva dove si mangia in quattro si mangia anche in cinque, può essere ancora una cosa valida. Guarda, amico, sarebbe veramente bello fare una puntata e dedicare a tutte quelle che sono le strategie e i fenomeni legati a questa crisi per cui le famiglie veramente sempre di più si stanno rivolgendo per sopravvivere. Come hai detto tu, c'è un fenomeno che sta sempre più sviluppandosi, che è quello che andava molto tanti decenni fa, in cui si ritorna un po' a vivere tutti assieme e chi ha la fortuna di avere uno stipendio sostanzialmente lo mette a disposizione, si organizzano queste belle tavolate, a volte anche nella crisi, non dico che c'è qualche aspetto positivo, ma comunque ci si anche ritrova. Poi ci sono tantissime altre strategie, al di là della solidarietà, come hai detto tu, comunque ci sono il scambio, c'è la banca ore, c'è lo scambio, come hai detto, della voce, che mette a disposizione, non so, le proprie esperienze, cioè i propri oggetti, c'è chi addirittura presta, io vengo a tagliare la siepe te, tu mi porti a spasso il cane, c'è chi, sappiamo, segue sempre di più le offerte, poi c'è chi si ingegna anche i lavori più incredibili, si diventa un po' tutti pittori, tutti giardinieri, si diventa un po', sai, tutti i contadini, si cerca di coltivare le piante sul pianerottolo, si cerca addirittura, ho visto ormai orticelli con delle galline, si cerca di andare a recuperare qualche uovo la mattina, veramente le famiglie ce la stanno mettendo tutta. Certo, è anche brutto dire che si sta cercando di rinviare quelle che sono le spese della prevenzione, della salute, della cura, e questa cosa qua certamente non va bene in un momento così delicato, dove anche la salute può avere un aspetto molto importante nella vita e soprattutto nel benessere della famiglia. Un tema che toccheremo magari in un altro spazio, questo delle spese sanitarie. Intanto annunciamo che fra due giorni parleremo della famigerata Tares, cercheremo di capirci qualcosa di più in attesa che ci dicano definitivamente che cosa diventerà questa nuova imposta. Intanto grazie all'Adico, a Carlo Garofolini, appuntamento fra due giorni. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.